matto, matto, quando fa notte cala il buio dentro te. Dal buco della serratura entrerò con un trombone, una poesia per risvegliarti, anima mia. Ancora qualche riflessione su quello che non chiamiamo matto, come questa canzone di Modugno, ma un po' squilibrato, sì. Cioè Rocco Carlomagno, sentito ieri sera qui da noi alla Zanzara. Buonasera a tutti. Come sta? I cittadini che ascoltano in modo attivo e cercando di capire quello che è successo oggi. Ma è gravissimo, perché se un ministro... Però lei è partito subito in quarta così, un attimo solo, Carlo Magno, adesso le domande le faccio io, un attimo. Facciamo prologo. Sì, calmi. Gravissimo. Equivoci che in questo momento sulla rete stanno circolando, come l'infamante articolo di Andrea Carugati sull'Unità Online, che domattina querelerò. Querelo anche il Presidente del Consiglio, perché in quei panni... Quereli pure Berlusconi, va benissimo. Certamente, perché sotto gli occhi di tutti ci sono aspetti probatori. Io ovviamente nella mia capacità, nella mia educazione, non ho risposto alle offese. Per risvegliarti, anima mia, matto, matto, matto. Come un acrobata impazzito. Perché è permesso al picchiatore La Russa degli anni 70 di aggredire le persone liberamente? Questo è il problema di fondo. La Russa si era svestito dei panni istituzionali e risponderà nelle sedi giudiziarie di quello che ha fatto. Bene, che ha cominciato a sferrare gomitate, pugni, un'aggressione di stampo di altri tempi. No? Cioè, vai, certamente ho riportato dei dolori intercostali, adesso saranno le persone preposte a valutare le lesioni o interne o anche i lividi che lui ha ovviamente creato sul mio corpo. Matto, matto, matto, quando fa notte cala il buio dentro te. Allora, La Russa, su questa vicenda del contestatore di ieri, pochi minuti fa, in un collegamento con il Corriere.it, ha detto: io sono un ministro militante. Comunque, sulla questione delle botte, sentiamolo. Sono tornato lì, ho detto: guarda, adesso è finita, adesso ti calmi e per favore ci fai vedere il tesserino che hai esibito e che dovevi lasciare. Naturalmente, piuttosto che esibire c'è il documento falso, si è agitato, era molto alterato. E io a un certo punto l'ho preso per il... Si è alterato anche lei, posso dire? Come? No, non ero alterato, adesso quando sono alterato dovrebbe vederlo. L'ho preso per il... ero finto alterato. L'ho preso semplicemente per il cappotto e ho detto: vabbè, allora se ne vada, e non la denunziamo nemmeno, non abbiamo al momento. Quello che è sicuro, e ci tengo a precisarlo, che non gli è stato torto neanche un capello, né il cappotto preso per il cappotto, non la spalla, ha avuto danni. Della serratura entrerò con un trombone.